Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1818. Accordo ad Aquisgrana tra le grandi potenze, la missione di peacekeeping in Francia è finita. Varata la prima nave a vapore d'Italia, la Ferdinando I parte da Napoli per una crociera nel Mediterraneo. Stati Uniti, la Second Bank inizia a chiedere la restituzione dei prestiti, timori per una bolla. A Milano nasce un giornale liberale, si chiama Il Conciliatore, e gli austriaci già pensano a chiuderlo. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Austria, Russia, Prussia e Regno Unito hanno trovato un accordo nel congresso di Aquisgrana. Le quattro potenze hanno deciso di ritirare le loro truppe dalla Francia, ma hanno contemporaneamente, stando a quanto si dice, stipulato un patto segreto con il quale si impegnano ad un nuovo intervento nel caso a Parigi la situazione torni a degenerare. Nessuna decisione su un altro degli argomenti all'ordine del giorno, ossia l'abolizione della schiavitù. È nata la prima nave a vapore fabbricata in Italia. Il primato spetta ai cantieri napoletani su stimolo del re delle due Sicilie. Sentiamo. È stata varata tra ali di folla festante mentre la banda suonava l'inno nazionale Dio preservi il re, e la stessa nave si chiama Ferdinando I. È stato lui, sovrano piuttosto attento all'innovazione tecnologica, a volerla. Appena un anno fa aveva affidato a un francese, Pietro Andriel, il monopolio della navigazione a vapore sulle acque del Regno, insieme al compito di far costruire subito un'imbarcazione. Lavoro realizzato celermente dai cantieri dell'armatore Filosa, 38 metri di lunghezza circa, 15 cabine per ospiti di riguardo, una cinquantina di posti a sedere. La nave è partita per una crociera nella quale ha toccato vari porti d'Italia per poi giungere a Marsiglia. È la prima imbarcazione a vapore del Mediterraneo e la prima a toccare più stati, quello pontificio, il Granducato di Toscana, il Regno di Sardegna. Paolo Piacenza è il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. La Second Bank, creata dal congresso americano appena 2 anni fa, ha iniziato a chiedere alle banche degli stati la restituzione dei prestiti concessi con molta facilità fino ad ora. Ma molte di queste banche, che a loro volta hanno prestato ai cittadini americani il denaro col quale stanno comprando terreni, non sono in grado di far fronte alla richiesta. Già si segnalano i primi fallimenti e si teme una bolla speculativa. Lo chiamano il foglio azzurro per il colore della carta, ma il nome della testata è Il Conciliatore. Esce ogni giovedì e ogni domenica a Milano e sembra essere una spina nel fianco per i dominatori austriaci, viste le sue tendenze liberali. Infatti, da Vienna stanno pensando di chiuderlo. Il Conciliatore sopravvive grazie al finanziamento di due grandi proprietari terrieri lombardi, Luigi Porro Lambertenghi e Federico Confalonieri, e tra i collaboratori vanta gente del calibro di Silvio Pellico e Giovanni Berchet. È tutto sul nostro sito, potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, visitate anche la nostra pagina Facebook, lasciateci dei commenti là o fatelo prendendo penne e calamaio elettronici. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it. È da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.